con Fabio Ferzetti per un bilancio dell'annata cinematografica 2018 e per sapere anche i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Fabio, ben trovato. Ben trovato a te Federico, buongiorno a tutti. Allora, com'è andata quest'anno? Ma stavo riguardando così, sfogliamo proprio l'agenda, riguardavo almeno per quanto riguarda le uscite al cinema senza entrare nei festival, che è un altro discorso ancora. Mi sembra un'annata senza, non voglio dire senza fame e senza, ma di transizione, so che è un luogo comune quando non si sa bene. Sono uscite delle conferme, sono uscite delle piccole delusioni, ci sono stati più che grandi scoperte dei casi, appunto, il più rumoroso è quello Netflix, sicuramente, di cui si è parlato, quindi forse appunto è un'annata che investe più gli affetti generali che, come dire, i singoli autori e il cinema come arte, una forma espressiva, come lì abbiamo avuto una serie di conferme, di scoperte, ma quelle non mancano mai, ecco. Sì. Però invece sta cambiando qualcosa invece nelle abitudini e negli affetti industriali, insomma, quello sicuramente, ecco, quella, la grande novità forse è questa, c'è cioè anche una piccola e non dichiarata guerra tra festival, quindi tra i possibilisti e invece i realisti che rifiutano appunto l'accesso ai film prodotti da Netflix, dico, che diventa sempre più imbarazzante fare, visto che Netflix produce i signori del calibro appunto di Cuarón, del prossimo Scorsese, di fratelli Coen, anzi, ormai bisognerà protestare con più forza perché i poveri Coen sono andati direttamente su Netflix senza passare per le sale cinematografiche. E perché? Per quanto Questo se mai. riguarda le tue preferenze, soffermandoti anche per motivarle. Sì, cominciamo con le preferenze. Allora, io, guarda, sono i 5 film che ho indicato anche al sindacato, oddio, dovrebbero restare segreti, ma insomma non c'è nessun segreto da tenere. No, perché il sindacato fa un referendum tra alcuni membri della commissione che fa gli insegnanti della critica, tra tutti quelli che abbiamo segnalato, ognuno indica i propri 5 in ordine di preferenza, poi c'è tutto un complicato conteggio per il Parlamento, il confronto è una bazzecola, per cui al primo vanno tre voti, al secondo significa tutto e viene fuori che il primo, oddio, sai, non so se lo posso dire ancora, vabbè, non dirò chi ha vinto, Non direi che perché sia ancora segreto, no, scusate, comunque tra i miei 5 film, ti dico non in ordine perché insomma poi certo. ma io ho indicato sicuramente il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, che è come dire, pensiamo che la bellezza del film detta su qualsiasi altra cosa quest'anno era un film clamoroso per proprio da tutti, non c'era un segmento del fare cinema dal pensarlo al metterlo in scena al montarlo arredare, scenografare, fotografare, musicare, non c'era nessun elemento di linguaggio cinematografico che non fosse proprio al diapasone, era clamorosamente nuovo, insieme emozionante, godibile, non per fare un esempio di un film che non è tra i miei 5 preferiti, nonostante abbia delle cose bellissime, però io non capisco perché uno deve andare in otto volante e soffrire 1.000 per poi godere altro 1.000 in un'altra scena, e parlo di Maktoub, My Love, di Shish, che è sicuramente un regista geniale, ma non fa mai completamente, o quasi mai, insomma, all'altezza del suo talento, cioè il provocatore prende sempre la mano sull'artista, questo invece è un film completo, Io spero che sia nascosto. ho avuto la fortuna di recuperarlo all'Isola Tiberina su grande schermo, quindi all'aperto, è stata una bella esperienza. Beh sì, è un film magnifico, proprio magnifico. Poi un altro film magnifico che non mi stanco di rivedere, l'ho visto più volte, e questo invece te lo dico io, l'ho visto perché ha senso. Ora parlo di Visage Village di Agnès Varda e Jay Garry, grande fotografo, street artist, insomma, è un film di cui si è parlato moltissimo, non starò a spiegare di cosa si tratta, ma insomma, un film a quattro mani, che è un documentario, ma è un documentario messo in scena, è un documentario poi su cosa? Sul lavoro di J.R., sui villaggi in cui si aggirano su Agnès Varda e la sua storia, e la sua lunghissima storia artistica e personale, insomma, sì, e tutto questo è molto di più. E a me è capitato di vederlo invece l'anno scorso, ma in sala è uscito quest'anno, quindi non lo gioco quest'anno, al cinema ritrovato a Bologna, nella Piazza Grande di Bologna, c'erano almeno 3.000 persone. persone, un silenzio religioso e veramente una standing ovation finale, tutti con le lacrime nel petto. E essendo un film poi che parla di questo, anche soprattutto della comunità, del ritrovarsi, del definirsi, del trovare delle ragioni anche per passare insieme qualcosa, ecco, veramente lì il rito del cinema collettivo, ecco, ritrovava tutto il suo senso, di un'emozione veramente indimenticabile, quel film in quel contesto. Poi, altro grandissimo film di quest'anno, grande sorpresa, perché seguo da anni, come tutti, Stefano Savona, che ha fatto tanti bei documentari in giro per il mondo, sempre in prima linea, rischiando la pelle, andando nelle trincee fisicamente, nei luoghi insomma più incandescenti del pianeta, dalla Palestina all'Egitto, però con la strada di Samuni si è superato, perché appunto invece ha fatto qualcosa che va oltre il documento in senso stretto, ma che contiene insieme la capacità di raccontare, appunto rintracciare, far sopravvivere una storia di personaggi che prima sarebbero stati cancellati, dimenticati, perforati dalla storia come accade ogni giorno, trovando però anche una chiave espressiva incredibile, che è quella di unire appunto al lavoro del documentarista a quello dell'animazione, che è tanto di Stefano Savona quanto di Simone Massi, anche se Massi non mette le mani avanti, il suo lavoro viene in qualche modo dopo, ed è vero, perché poi ha animato partendo dalle immagini insomma raccolte da Savona, quindi attenendosi ai luoghi, ai volti, agli ambienti scelti. Mi hanno impressionato, Fabio, anche i filmati ad infrarossi dell'esercito. Allora, quelli io pensavo che loro avessero messo misteriosamente le mani su qualche cosa di segreto, o magari di segretato, comunque invece è una simulazione, a quanto ho capito, io ne ho parlato anche con loro. Quello è, si fa così, se quelli sono i luoghi, stante l'altezza evidentemente di volo presunta, ricostruendo i movimenti, ma non sono immagini reali, sono ricostruite, però che siano ricostruite con il massimo scrupolo, il massimo del rischio, certo, abbiamo visto altre volte immagini di questo tipo a noi tragicamente vere, insomma, e quelle erano. Sì, certo, in quel contesto lì, quando tu hai visto, hai conosciuto uno per uno la ragazzina, i fratelli, i cugini, i nonni, beh certo, entra. Ma insomma, da tutta questa tecnica, per così dire, queste scelte artistiche, insomma, usiamo questa parola di Savona e Massi, danno a tutta questa massa, insomma, incredibile di eventi e di voci e di storie una forza, una risonanza veramente senza precedenti. Per me è un grandissimo film, quindi lo metto tra i primi 5. Impossibile non mettere fra i primi 5, che pure è un numero molto basso, Un affare di famiglia di Hirokazu Koreeda, un giapponese che ha vinto, non solo ha vinto a Cannes, ma per una volta, perché non succede quasi mai, non solo ha vinto a Cannes, non solo è un film magnifico, ma è anche piaciuto molto al nostro pubblico sempre più distratto, che stavolta invece questo film lo ha colto, cioè il pubblico che non è affatto così piccolo del cinema, diciamo, di qualità, questa volta il messaggio è arrivato, insomma, ci sono film clamorosi, bellissimi, che passano inosservati ogni anno. Questa volta, insomma, fa doppiamente piacere, insomma, un film magnifico, anche questo non ci si stanca di vedere, che nasconde uno strato. Mi ha stupito veramente. Sì, perché anche lì conosciamo Koreeda, anzi, negli ultimi sembrava anche un pochino ormai, ormai sappiamo come fai i film, quindi sono sempre belli, ma ecco, qui invece c'è proprio uno scatto, non so se per la complessità di tutte le vicende che si intersecano, se per l'originalità della storia, per la bravura strepitosa di tutti gli attori, dall'anziana che non c'è più, che credo sia morta dopo la fine del film, madre alla nonna, ai giovani, ai bambini addirittura. Quindi film meraviglioso. E poi un altro dei film dell'anno, ma non solo per la ragione che si dicevano prima, perché è un grandissimo film, è Roma di Cuarón, cioè non c'è dubbio che Roma sia uno dei grandi cinema, molto classico, molto pensato. So che c'è chi storce il naso, perché naturalmente quando un autore è così profondamente consapevole di tutto quello che fa, è capace di organizzare in modo così magistrale tutto ciò che ha davanti alla macchina da presa, c'è sempre chi alza il ditino e dice ma però ecco non... cioè c'è un po' il sogno romantico del regista che proprio deve essere travolto, unito dai demoni che ha evocato, e non deve essere capace di orchestrare tutto con armonia. Ecco, invece no, in questo caso se qualcuno ha pensato per molti anni a questo film prima di farlo, secondo me ha pensato lungamente anche con i suoi produttori a come farlo al meglio, è riuscito a imporre cose assolutamente non scontate, come appunto lo spagnolo, il bianco e nero, gli attori sconosciuti. Tutto questo raggiunge un linguaggio cinematografico appunto di rara potenza, certo molto classico, ma che c'è di male, insomma. Ecco, quindi Roma è il quinto dei miei cinque film, ma insomma, poi ce ne sarebbero molti altri da citare, ecco. Cioè, ci sono delle esclusioni dolorose che sono state fatte. Sì, sì, sì. Bene Fabio, allora poi chiaramente saprai dei risultati, io ti ringrazio, è sempre un piacere e un auguri per il nuovo anno. Auguri a voi. A presto, ciao. Ciao Federico.